Salva Danaio. Buongiorno da Roberta Pellegatta, lunedì 4 luglio 2011, sono le 12:15, bentrovati al primo appuntamento della settimana con Salva Danaio. Un saluto a Fabio Cantadori in regia, Gaia Romani in redazione, insieme fino a l'una. Come trascorreremo questi minuti insieme, questi tre quarti d'ora che ci separano dal GR delle 13 e dagli approfondimenti d'Italia in controluce che arrivano subito dopo? Parlando di RC Auto. Ancora una volta quindi ci rivolgiamo agli automobilisti, ai motociclisti, al popolo dei guidatori, perennemente alle prese con questa polizza obbligatoria in Italia particolarmente cara, ma risparmiare si può con i giusti accorgimenti, lo garantisce oggi una guida che trovate all'interno del Sole 24 Ore in edicola gratuita. Il titolo è proprio Risparmiare sulla RC Auto, una bussola per orientarsi tra le clausole, il sottotitolo. Quindi trovate nel quotidiano tutte le indicazioni e qui alla radio oggi le risposte ai vostri casi personali, perché siamo in diretta, gli esperti sono quelli del Sole 24 Ore che chi ci segue ormai conosce benissimo, quindi ci si può fidare, e potete dunque cominciare a prenotarvi se avete delle domande in tema di RC Auto all'800 24 00 24, è un numero verde, oppure mandando un sms a questo numero 349 238 6666. Sono gradite anche le domande in tema di indennizzi, ormai da 4 anni si applica quello diretto, un metodo più agile e veloce che però ha delle esclusioni e vedremo quale, spiegheremo come far valere i propri diritti con le compagnie in caso di sinistri. Prima di presentarvi gli ospiti, in sintesi sentiamo le proposte avanzate e i consigli pratici per risparmiare sull'RC Auto. Istituire un organismo antifrode, completare la disciplina sul risarcimento dei danni alla persona, sviluppare anche nel settore assicurativo il meccanismo della conciliazione, ma anche far uso della tecnologia nella liquidazione dei sinistri. Sono queste alcune delle proposte emerse dal forum che si è tenuto nei giorni scorsi tra ANIA, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, e le associazioni dei consumatori per l'RC Auto. In particolare per contenerne i prezzi in continuo aumento. La polizza auto continua infatti ad essere una questione che incide parecchio sul bilancio familiare e la situazione diventa ancora più ingarbugliata se si pensa che all'interno di una stessa compagnia assicurativa i prezzi possono variare tantissimo a seconda della categoria di età a cui si appartiene. Si rilevano dunque prezzi diversi tra neopatentati, automobilisti fino intorno ai 45 e quelli oltre i 65. Variazioni tra le cui pieghe, però, spesso è possibile risparmiare. Il trucco sta dunque nell'andare a trovare la soluzione più vicina alle proprie esigenze, confrontando le varie proposte sul mercato. Prima di mettersi alla ricerca della polizza giusta, è bene però porsi alcune domande. Quante persone usano l'automobile? Quanti anni hanno queste persone? Le tariffe più economiche, infatti, si ottengono quando a guidare il veicolo è un solo guidatore o più guidatori, tutti esperti, oltre i 26 anni. Quanti chilometri percorro all'anno? Per guidatori di città, quelli cioè che si spostano dal lavoro a casa con l'auto e poco più, un'assicurazione calcolata a chilometro è sicuramente la scelta giusta. Le variabili dunque sono molte e solamente comparando le condizioni dei contratti e le tariffe delle assicurazioni applicate si possono portare a casa risparmi che vanno da qualche centinaio a oltre un migliaio di euro. 800 24 0024 il numero per le vostre telefonate, quello per i messaggi è 349 238 6666. In linea con Radio 24 ci sono due esperti del settore, c'è Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, ben trovato. Grazie, buongiorno. E Raffaele Pellino, presidente dell'UCI, l'Ufficio Centrale Italiano, esperto del Sole 24 Ore per le tematiche assicurative, bentornato. Buongiorno, grazie. Allora, voglio innanzitutto ricordare che la guida all'RC Auto è in formato cartaceo, oggi in edicola con il Sole 24 Ore, ma è anche online con ulteriori approfondimenti, e questo è l'indirizzo www.ilsole24ore.com/rcauto. Si possono inoltrare domande e le prime risposte arriveranno già domani sul quotidiano. Ma a proposito di domande frequenti, Maurizio Caprino, entriamo proprio nel dettaglio. Abbiamo sentito qualche consiglio in sintesi nella scheda, ma siamo qui proprio per approfondire tutti questi temi. Entrando nel dettaglio, no? Abbiamo sentito che dobbiamo considerare, prima di stipulare una polizza RC Auto, innanzitutto le nostre esigenze e poi analizzare anche le nostre caratteristiche. Ci dobbiamo analizzare. Sì, Sì, però ovviamente non riusciremo mai a farlo da soli, perché oggettivamente l'offerta è tanto vasta che ci perderemmo, insomma, alla fine diventa un vero e proprio lavoro, per cui un consiglio può essere quello di utilizzare, come dire, una piattaforma guidata che possiamo trovare sul sito dell'ISVAP, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, è il tuopreventivatore.it, che in pratica pone lui già delle domande, le rovescia in tempo reale alle compagnie assicurative e, diciamo, nel giro di una mezz'oretta dà anche una risposta. Sono risposte che le compagnie forniscono sulla base delle proprie tariffe, quindi diverse poi da quello che è il premio che effettivamente andremo poi a pagare, perché ci sono, come dire, degli sconti ad hoc, delle cose che influiscono poi su questa tariffa base, però quantomeno ci serve per andare a scremare, andare a capire quali sono le compagnie più favorevoli e poi con queste intavolare, diciamo, una trattativa, ecco. Quindi internet è lo strumento al quale affidarci? Assolutamente sì, così come ci sono altri siti che sono siti di brokeraggio che sono un po' più mirati, anche se non riguardano poi le offerte di tutte le compagnie, però sicuramente anche quelli possono servire. Quindi c'è il tuo www.iltuopreventivatore.it, e questo è un sito istituzionale, il sito dell'ISVAP, sì. Quindi non appartiene a compagnie assicurative eccetera, e compara quindi il prezzo di listino delle polizze e ci dà questa serie di preventivi all'interno dei quali possiamo orientarci. Esatto, bisogna stare molto attenti però a rispondere bene alle domande, perché c'è un modulo da compilare e so che diversi lettori vanno un po' in crisi su questo aspetto, però insomma è difficile. Occorre soltanto concentrazione, ecco, soprattutto sulla data di rilascio della patente, che a volte viene confusa con una data di eventuale ritiro della patente per chi lo subisce avendo commesso gravi infrazioni. Insomma, ci sono un po' di cose a cui prestare attenzione, ecco. Poi la guida del Sole 24 Ore segnala anche altre piattaforme a cui tu facevi cenno, per esempio segnala www.assicurazione.it, www.seisicuro.it, brokeronline.it, e in questo caso sono comprese anche le offerte delle compagnie. Esatto, in questo caso sono più mirate, però come dicevo prima non prendono le offerte di tutte le compagnie, quindi quindi sono più approfondite ma anche con un'analisi meno ampia. Va bene, quindi questa è la strada principale e maestra per cercare di risparmiare in qualche modo, ma adesso lo so che faccio una domanda ad altri tempi, ma chi per esempio non avesse confidenza con internet? Poniamo che non ha internet. Che è abbastanza fritto, perché l'alternativa è ancora internet, nel senso che le varie norme di tutela dei consumatori che si sono succedute nell'ultimo decennio hanno per esempio obbligato le compagnie a fare offerte su internet, cioè anche compagnie che non operano su internet devono fare offerte su internet, anche compagnie tradizionali intendo, e chi proprio non ha internet allora deve fare come si suol dire il giro delle sette chiese, andare agenzia per agenzia, però ovviamente diventa parecchio dispendioso in termini di tempo, insomma. Ecco, quando c'è questa differenza tra il preventivo fatto e poi l'effettivo premio che si va a pagare, perché succede, lo hai detto anche tu poco fa, ecco, cosa è dovuto? Ma è dovuto a tantissimi fattori, c'è purtroppo un fattore territoriale sul quale l'ISVAP sta per elevare delle sanzioni, il fattore territoriale, ossia chiunque si assicuri in una regione del sud a parità di tutte le altre condizioni si va a rivolgere a un agente che spesso può, diciamo, ha una cosiddetta flessibilità tariffaria monca rispetto a quelli di altre aree, cioè la flessibilità tariffaria è un monte sconti che un agente può gestire in libertà, insomma, che gli viene assegnata dalla compagnia. Ci sono altre differenze legate per esempio all'appartenenza di un cliente a una determinata categoria, ci sono convenzioni per esempio di alcune compagnie con enti pubblici, forze dell'ordine eccetera eccetera, per cui ovviamente questo non si vede sul preventivatore ISVAP, però chi va in un'agenzia mostrando il tesserino insomma può usufruire di questa convenzione, e queste sono le principali cose. Allora un ascoltatore scrive: però se poi il premio che vado a pagare è superiore al preventivo, cosa perdo tempo a fare? No, di solito i preventivi hanno un valore vincolante per la compagnia, quindi va rilevata l'anomalia e risolta sulla base di questo, cioè loro si impegnano, hanno un valore vincolante appunto. Va bene, 349-238-6666, tra poco sentiamo Miloš da Vicenza, ci ha raggiunto all'800-24-0024, continuate a prenotarvi. Se guardate oggi la guida con il Sole 24 Ore troverete degli articoli che riguardano proprio l'indennizzo diretto a firma di Raffaele Pellino. Allora con lei parliamo proprio di questo indennizzo che è stato introdotto ormai 4 anni fa ed è il meccanismo attraverso il quale la denuncia di un incidente e la richiesta di risarcimento vengono indirizzate alla propria compagnia assicurativa e non più a quella di chi ha causato il sinistro. È un metodo che insomma facilita il risarcimento, ma che si applica solo in determinati casi, ha delle esclusioni. Sì, sì, è un metodo che non è originale, nel senso che non è nato improvvisamente con una legge, ma è già l'erede di una convenzione volontaria fatta fra le imprese del mercato all'epoca dell'istituzione del cosiddetto indennizzo diretto, con una denuncia di sinistro redatta su un modulo di costruzione amichevole a doppia firma si poteva già rivolgersi alla propria compagnia, avevano costituito un consorzio per la gestione dell'indennizzo diretto. Questo sistema ha avuto una sperimentazione decennale con grande soddisfazione degli utenti, è diventato poi legge e consente a chiunque ha un incidente che si verifica fra due veicoli a motore identificati e assicurati per l'RC Auto con imprese che partecipano, che ormai sono tutte le imprese che operano, che partecipano alla convenzione per la gestione di questo sistema, può avvalersi di questa procedura che indubbiamente semplifica enormemente le cose da fare, valorizza in maniera significativa la scelta del proprio assicuratore, perché a questo punto io ho un riscontro diretto della bontà della scelta obbliga l'assicuratore a guidarmi anche fin dal momento della predisposizione della richiesta di risarcimento, fin dall'illustrazione dei criteri per l'attribuzione della responsabilità. Ecco, tutto questo rende la vita più facile a chi ha subito un incidente avendo in tutto o in parte ragione. È una procedura più agile. È una procedura agile, è una procedura preziosa, soprattutto perché valorizza la scelta del proprio assicuratore. In quel momento io ho il riscontro se ho scelto bene o un altro dei riscontri, che non è solo il prezzo da pagare, un altro dei riscontri se ho scelto bene o ho scelto male il mio assicuratore. Sì, è una cartina tornasole. È anche una cartina questo. Tornasole, perfetto. Va bene, parleremo anche delle esclusioni nel corso della trasmissione, anche rispondendo alle vostre domande. 800 24 00 24 349 238 6666. Miloš da Vicenza, ben trovato. Buongiorno. Dica. Io volevo dire la mia esperienza, non volevo chiedere niente. Guarda, io ho fatto tanti risparmi cambiando ogni anno assicurazione. Per esempio, quando scade la mia assicurazione, io vado da un'altra compagnia assicurativa e lì mi chiedo preventivo e così ho spassato tanto. Per esempio, l'anno precedente pagavo 750 euro l'anno, adesso pago 145. Posso dire anche il nome di gruppi assicurativi? No, scusi, lei pagava l'anno scorso 700 euro, adesso 145. Da 750 sono passato a 450. A 450, beh, un buon... Sì. Beh, più che dire i nomi, forse ci può dire come fa. Ma roba è semplice, sono andato da gente di compagnia assicurativa e ho chiesto puoi farmi a questo prezzo, lui mi ha detto sì ti posso fare e ho fatto così. Quindi lei si propone come nuovo cliente e ottiene degli sconti rispetto alla sua polizza precedente? Sì, come nuovo cliente, proprio ogni anno faccio così, ho cambiato 4-5 compagnie assicurative. Perché io sono d'origine, sono da Serbia, macchina sono da 2004, da 2004 c'è la macchina e ho cambiato fino adesso 5-6 compagnie assicurative. Va bene, con una certa convenienza abbiamo capito. La ringrazio per questa testimonianza, Miloš. A presto. Bentornati, si parla di RC Auto oggi a Salvadanaia, un tema molto sentito dagli automobilisti che negli ultimi tempi si sono ritrovati a dover pagare premi assicurativi aumentati, alle volte senza una ragione apparente, anche mantenendo un comportamento ineccepibile al volante. Nella puntata di oggi intendiamo dare consigli quindi per risparmiare comunque su questa polizza, perché in effetti non esiste un RC Auto in assoluto più conveniente delle altre, però esiste quella conveniente ed efficace per il nostro caso personale. Ne stiamo parlando con Raffaele Pellino, che è presidente dell'UCI, l'Ufficio Centrale Italiano, esperto del Sole 24 Ore per le tematiche assicurative, e poi c'è il collega del Sole 24 Ore in linea con noi, Maurizio Caprino, e ci siete voi. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, per scrivere un messaggio 349 238 6666. Sentiamo allora subito Giorgio da Rovigo. Pronto Giorgio? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la chiamata e complimenti per la trasmissione. Io ho la macchina che l'anno scorso in dicembre l'hanno fatto riassicurare di nuovo, la cassa sesta, la quinta, senza nessun sinistro. Dai 400 euro che pagavo è arrivato a 460, ho chiesto le spiegazioni, ha detto non ti conviene, vai un'altra. Cioè, quindi lei è passato dalla quinta alla quarta, ha detto? Esatto, dalla quinta alla quarta, senza nessun sinistro. Pagavo prima 400 euro, mi viene aumentata a 460, ma io capisco che quando non c'è nessun sinistro magari rimane quelli 400 euro, intanto che sono fatti aumenti anche l'anno scorso in marzo, aprile, mi ricordo. Quindi non le hanno dato spiegazioni, lei sta pensando di cambiare? Ma anche da cambiare, ma diciamo, perché non ti dà una spiegazione pronta? Senti, per questa e basta. No. Va bene, la ringrazio Giorgio. Maurizio Caprino, a proposito di questi aumenti, no, che uno reputa ingiustificati. Ma in realtà uno non deve guardare quello che ha fatto, o meglio quello che non ha fatto lui, cioè gli incidenti. Il problema è che gli incidenti che hanno fatto gli altri sono stati pagati e hanno causato sul sistema un ammanco di soldi che noi tutti in qualità di assicurati siamo chiamati a coprire, anche se non causiamo incidenti, perché l'essenza dell'assicurazione è proprio questa. Ora il problema è quello di incidere proprio su ciò che provoca questi ammanchi e che sono sia delle norme sia delle cattive gestioni che poi alla fine portano appunto a tutto questo. In ogni caso la risposta che hanno dato al nostro ascoltatore è assolutamente coerente e lo dimostra anche l'ascoltatore precedente di prima della pausa, il quale cambiando anno per anno ha trovato via via soluzioni corrette. Anzi, devo aggiungere che spesso cambiare anno per anno è importante, perché al primo anno, diciamo, per i nuovi clienti alcune compagnie applicano un bonus, diciamo, per strappare il cliente alla concorrenza, poi dal secondo anno in poi non lo applicano più, quindi possono esserci degli aumenti, quindi è sempre buona norma guardarsi attorno. Allora dimmi se questo consiglio può valere anche per la nostra ascoltatrice che ci raggiunge via sms e dice: sono Lucia da Napoli, ho la patente da 7 anni ma non ho mai guidato, da qualche mese ho deciso di prendere auto ma i preventivi fatti sono spaventosi. Parto dalla 14ª classe, ho 35 anni, non posso usufruire del decreto Bersani, come posso risparmiare? Ci chiede Lucia. Purtroppo è un caso disperato. No, questo. Povera Lucia. È solo una 35enne di Napoli. Sì, però il problema è che Napoli ha ha proprio una realtà assolutamente fuori dal mondo. L'unica cosa che si può fare è appunto cercare se c'è una compagnia che fa un preventivo meno spaventoso delle altre, insomma, ecco, purtroppo è solo una questione di limitare il danno, ma purtroppo non lo si può eliminare. Andiamo nella provincia di Viterbo da Carlo. Pronto Carlo? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Il mio caso è molto semplice. Io circa 3-4 mesi fa ho fatto un incidente con la macchina e la mia assicurazione purtroppo era scaduta da circa un mese. La dinamica dell'incidente è tale per cui ho sicuramente ragione. Vorrei sapere se comunque ho diritto al risarcimento del danno da parte dell'assicurazione dell'altra macchina oppure non ho diritto a nulla. Grazie. Grazie a lei. Sentiamo Raffaele Pellino. Certamente ha diritto all'esercimento del danno. Lo stato contravvenzionale grave di chi circola senza assicurazione non incide nell'attribuzione della responsabilità. L'importante è aver ragione. E dopodiché, naturalmente, se c'è stata una verbalizzazione, risponderà della circolazione senza copertura assicurativa. Gli agenti intervenuti avrebbero dovuto addirittura fermare la macchina, confiscarla. E quindi, però, per quanto riguarda il diritto all'esercimento, non c'è alcuna incidenza. Adesso approfondiamo il tema dell'indirizzo diretto rispondendo a Serena, che ci scrive un messaggio e dice: volevo sapere se l'indennizzo diretto non vale per danni superiori a una certa cifra. A me è successo, pur avendo compilato bene la constatazione amichevole con doppia firma, ho dovuto aspettare mesi e mettere in mezzo un avvocato. Ora sono passata ad un'assicurazione online. Raffaele Pellino. Ah, sì. Dunque, no, certamente per i danni a cose non c'è limitazione. Il fatto che la sua compagnia abbia impiegato tempo per istruire la pratica e addirittura l'abbia, diciamo, scoraggiata, non vuol dire assolutamente nulla. Per i danni a cose, la limitazione per il valore del danno c'è per le lesioni del conducente, che devono essere quelle contenute nell'ambito delle micro permanenti, cioè per fino al 9% di invalidità. Per quanto riguarda i danni a cose, no. Ora, la scelta di marketing fatta dalla nostra ascoltatrice evidentemente è stata dettata proprio dal comportamento della sua vecchia compagnia. E come si diceva prima, quindi, in questo caso. Il shopping ha sprombattuto. Bisogna metterle a confronto anche le compagnie, non solo sul piano dei prezzi, ma anche sul piano dei comportamenti. 800 24 00 24 per i messaggi 349 238 6666. Io invito Paolo, che ci ha scritto un messaggio, invece a chiamarci, perché lui sostiene che è impossibile riuscire appunto a compilare tutto ciò che chiede il tuo preventivatore.it, quindi ci può spiegare meglio che con un messaggio. Maurizio Caprino. Sì, assolutamente sì, lo dicevo prima che ci sono alcune voci abbastanza oscure, quindi se l'ascoltatore ci chiama possiamo cercare di dargli una mano, assolutamente. Ecco, è arrivato in questo momento invece un altro messaggio di Angelo che dice che con il preventivo ISVAP ha risparmiato oltre 200 euro, quindi abbiamo due testimonianze opposte. Andiamo nella provincia di Ancona da Gianluca, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Salve, io sono un agente di assicurazioni che opero qua nella zona. Ho ascoltato fino adesso la trasmissione e ho sentito che insomma ci sono parecchi consumatori che non sono contenti, diciamo, delle assicurazioni perché la situazione è poco chiara. Beh, io ovviamente vorrei spezzare invece una lancia per il mio settore. Io ci tengo a dire che con il discorso del RUI, che praticamente è il nuovo albo dove si iscrivono tutti gli intermediari assicurativi, sicuramente c'è un maggior controllo per quanto riguarda gli operatori di questo settore, perciò è ovvio, si possono trovare delle persone che purtroppo non sanno fare bene il loro lavoro, però secondo la mia opinione, almeno la mia esperienza, io mi ritengo un professionista a tutti gli effetti che svolgo bene il mio lavoro, ecco, questo ci tenevo. Si sentiva di difendere la sua categoria che ritiene essere attaccata, sì, ingiustamente? Sì, anche perché ripeto, adesso magari qualche anno addietro, diciamo, la situazione era differente, c'erano meno controlli, però attualmente penso che per svolgere questa attività bisogna avere un certo tipo di preparazione. E questo, quindi, a suo avviso la situazione è migliorata rispetto al passato? Sicuramente, per la mia esperienza, che sono 11 anni che sono nel settore, prima la situazione era molto più ingarbugliata, meno controlli, ripeto, adesso è stata fatta molta pulizia. Certo, dire che la situazione è ottimale direi una grandissima bugia, però penso che sia stata fatta una buona pulizia, ripeto. Va bene, devono rendersene conto adesso anche gli assicurati, oltre che gli agenti come lei. Grazie Gianluca, andiamo a Roma da Fabrizio, pronto? Sì, buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno. Io stavo ascoltando dall'autovettura la vostra trasmissione, opero nel settore da 12 anni, sono un intermediario assicurativo. Devo dire che nonostante il cambio di alcune regole negli ultimi tempi, purtroppo però non è cambiato l'atteggiamento da parte di alcuni dei miei colleghi, mi ci posso mettere in mezzo anch'io, spesso e volentieri non siamo molto chiari con la clientela, perché se noi oggi abbiamo un cliente che si meraviglia del fatto che non ha avuto sinistri e si vede aumentare l'assicurazione, è legittimo che lui si meravigli di questo e fa benissimo a cercare un'altra compagnia assicurativa, però non capisco chi abbia spiegato ai clienti che il fatto di non avere sinistri dia diritto a degli sconti, perché spesso e volentieri abbiamo un cliente che pensa che sia un diritto, giusto per carità, chiederlo, quello di avere uno sconto anche se non si sono avuti i sinistri. Quindi sì, sono in tanti a credere questo, anche persone che ci scrivono i messaggi. Nostra, gli ascoltatori nostra. Ci dicono, ma allora che cavolo serve sto bonus malus? Poi aggiunge parole che io non posso No, ma assolutamente, hanno ragione gli ascoltatori, perché ci sono state politiche molto aggressive da parte nostra degli intermediari, da parte di alcune compagnie assicurative che erano convinte di fidelizzare i clienti con le polizze auto, quando invece poi la polizza auto difficilmente fidelizza il cliente. Su questo potrà essere più dettagliato chi è più alto di me nel settore assicurativo, però le dico che è colpa nostra, di noi che facciamo questo lavoro, non tutti, non voglio mettere in mezzo il collega che ha chiamato prima, ma anche però non è cambiato l'atteggiamento di alcuni clienti, non voglio offendere nessuno, che anche un atteggiamento un po' speculativo nel caso di un sinistro, se l'hanno, anche magari consigliati dal carrozziere amico, perché mi creda, nonostante ci sia il CID, nonostante ci siano degli strumenti che delle tutele le danno, spesso e volentieri vediamo scarichi del credito, cessioni del credito a favore del carrozziere con il legale che entra immediatamente in mezzo. Ma certo, non si capisce perché. Va bene, la ringrazio Fabrizio da Roma. Maurizio Caprino, spieghiamo allora chiaramente a tutti quello che non riescono a fare delle volte gli agenti, come dice il nostro ascoltatore. A cosa serve il bonus malus e soprattutto abbiamo diritto a uno sconto quando non facciamo incidenti? Evidentemente allora, no, perché? No. Perché allora in un mondo normale avremmo diritto a uno sconto, perché meno incidenti facciamo ovviamente e più i conti e meglio vanno i conti del settore, che ripeto siamo tutti chiamati a ripianare. Il punto è che gli incidenti sono tanti, continuano a essere tanti anche se non siamo noi ad averli causati, e in più quelli che accadono costano tantissimo proprio per l'ultima cosa che ha detto, anche per l'ultima cosa che ha detto adesso questo l'ultimo agente assicurativo, ossia la famigerata cessione del credito, ossia ci sono intermediari che vanno dal danneggiato, gli dicono guarda questi sono i soldi del tuo danno, tu cedimi questo danno appunto che poi ci penso io ad incassare. Ovviamente queste persone, questi intermediari hanno una loro convenienza, andranno a spillare alla compagnia più soldi rispetto a quello che è il danno che riconoscono al danneggiato. Quindi si crea una sorta di mercato speculativo che aumenta il deficit, e non a caso proprio il divieto di cessione del credito è una delle 7 proposte che giovedì scorso il Forum Magna Consumatori ha presentato diciamo alle forze politiche e agli operatori in generale. Comunque decisamente sì, le persone ancora non hanno capito questo concetto, arrivano messaggi che non si possono leggere, però sì, posso affrontare quello di Valerio che dice potrebbe far ripetere al suo ospite quel concetto per cui anche se io non provo incidenti sono chiamato con l'aumento a compensare le casse dell'assicurazione, ma le assicurazioni gli hanno mai spiegato il concetto di rischio d'impresa? Siamo alla rapina legalizzata, conclude Valerio, insomma questa è l'atmosfera. Bentornati a Salva Danaio, parliamo di RC Auto e lo facciamo adesso con Sergio da Milano. Ci ha raggiunto all'800 24 00 24, potete ancora prenotarvi. Sergio? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei intervenire, io ho fatto il preventivo con la Direct Line, online. A parte che nelle caselle per la professione non c'è autista, io faccio il trasportatore da 10 anni. E niente, abbiamo fatto il preventivo, cioè ho messo come impiegato sul preventivo, ma io ho 28 anni, mia moglie ha 25, lei fa la casalinga, noi abbiamo fatto questo scontro di preventivi, a lei viene, cioè, la differenza sui 400 euro di differenza, cioè a lei viene molto meno l'assicurazione, ma lei, cioè so io come guida, lei può fare l'incidente anche uscendo, è meno esperta, anche un chilometro uscendo può fare l'incidente. Io che faccio l'autista da 10 anni, a me l'assicurazione mi viene molto di più a pagarla, non lo so, cioè come si spiega? Come si spiega? Maurizio Caprino. Sì, si spiega con il cosiddetto concetto di esposizione al rischio, ossia uno può anche saper guidare bene, tra l'altro non è questa la sede per andare a vedere chi sa guidare bene e chi male, però si parte dal presupposto che anche un ottimo guidatore, se per strada ci sta davvero tanto, rischia potenzialmente di causare un incidente più di un pessimo guidatore che esce una volta all'anno, insomma, quindi non a caso fra i parametri che possono essere utilizzati nel personalizzare il premio c'è appunto la percorrenza annua dichiarata. Poi ovviamente le compagnie e i loro conti li fanno su evidenze statistiche, quindi voglio dire il nostro ascoltatore saprà guidare meglio della moglie, ma ci sono evidentemente tante altre mogli che guidano meglio dei mariti, e queste statisticamente fanno numero, oppure non guidano meglio ma comunque causano meno incidenti perché escono di meno, perché sono più fortunate, non ci interessa, sta di fatto che causano meno incidenti e per questo sono trattate meglio, è una questione di statistica. Guido scrive: ho un'auto a noleggio di lungo termine da 10 anni e prima guidavo l'auto di papà, se cambio lavoro e perdo l'auto aziendale cosa mi succede? è un bel problema, perché l'ultimo attestato di rischio vale solo tra virgolette per 5 anni. Questa è una modifica entrata in vigore con la legge Bersani, perché prima gli attestati di rischio valevano addirittura un solo anno, per cui se uno fruisce per 10 anni di un'auto aziendale di fatto non ha alcuna storia assicurativa da esibire alla nuova compagnia, quindi può solo limitarsi a far presente la situazione per capire se la compagnia stessa ha fra i criteri interni che adotta anche un occhio particolare per situazioni del genere. Però dal punto di vista giuridico nulla può pretendere. E quindi si parte dalla massima classe? Dalla 14, la classe d'ingresso. Sì, insomma, la classe d'ingresso particolarmente alta. Un ascoltatore ci fa notare che non abbiamo parlato dell'esclusione dell'indennizzo diretto. Ha ragione, Raffaele Pellino, riusciamo a dirlo in maniera sintetica? Immatricolati all'estero. Prego. Veicoli, incidenti con un veicolo immatricolato all'estero, incidenti con più veicoli, sostanzialmente queste sono le esclusioni fondamentali. O lesioni gravi al conducente, lesioni oltre il 9%. Quindi un incidente con veicolo immatricolato all'estero, perché ovviamente la compagnia che lo assicura non partecipa alla convenzione per l'indennizzo diretto. Incidenti con più veicoli, lesioni del conducente superiore al 9%. Va bene, comunque si trovano questi dettagli nella guida in edicola con il Sole 24 Ore. A proposito di stranieri di estero, arriva un messaggio al 349-238-6666 che dice: spiegatemi perché un cittadino straniero residente da oltre 15 anni in Italia deve pagare di più. La differenza è di 170 euro, ci scrive questo ascoltatore Marino da Padova. È così, Maurizio Caprino? Pagano di più gli stranieri? Ma non è detto, non è assolutamente detto. Se lui fa un po' di shopping probabilmente trova anche una soluzione migliore. Non è un dato generalizzato assolutamente. Angelo da Bologna: vorrei sapere se è possibile trasferire la classe di merito di un cittadino francese per sottoscrivere una RC auto in Italia. No, assolutamente no. I sistemi non sono assolutamente comunicanti fra un paese e un altro, sono sistemi proprio totalmente diversi, quindi non ci sono equivalenze, e questo mi dà l'occasione di dire che non è neanche possibile assicurarsi con una compagnia estera, nel senso che la compagnia estera di per sé non è abilitata a operare in Italia. Se lo è, se è abilitata, quindi se è nel registro dell'ISVAP, applicherà le condizioni italiane, ovviamente, cioè le compagnie estere non hanno la bacchetta magica, ecco, staranno sempre alle condizioni italiane, e siccome il sistema italiano ha i costi che conosciamo, è pieno di speculazioni, è un ammortizzatore sociale per intere categorie professionali, i costi italiani non sono quelli francesi o tedeschi, eccetera. Questo togliamocelo dalla testa, mettiamocelo bene in testa. Andiamo da Claudio, che ci chiama da Napoli. Claudio, sintetico, perché siamo davvero in chiusura, ben trovato. Buongiorno, allora io faccio l'avvocato nel territorio napoletano, facevo questa riflessione: se vogliamo risolvere il problema degli aumenti delle polizze, il controllo deve essere fatto negli uffici dei giudici di pace e nei tribunali, perché tutti i sinistri, il 90%, e lo dico a ragion veduta, sono completamente falsi. Abbiamo testimoni che dicono tutto il contrario di tutto, e le carte non vanno alla Procura della Repubblica così come dovrebbero andare. Questo è l'unico modo per poter risolvere la questione di aumento ingeneralizzato delle polizze. Raffaele Pellino, cosa ne pensa? Ma io ne penso da operatore ultra cinquantennale del settore, penso che forse il collega napoletano, sono avvocato anch'io, esagera. Certamente c'è una componente molto grave, molto importante ad attribuire alle frodi, però dire che tutte, eccetera. C'è una situazione, anche questo aspetto si sta combattendo con la costituzione dell'agenzia antifrode, eccetera, però dire che tutto il movimento tariffario, gli elevati costi derivano da frodi, diciamo che derivano da una situazione del traffico che è quello che è, che è certamente più caotico che altrove, crea più incidenti, da infrastrutture insufficienti, certamente con una componente attribuibile alle frodi. D'altra parte l'avvocato napoletano, nel dichiarare questo, rivolge anche un'accusa ai suoi colleghi che queste frodi le tutelano, perché dice basta andare dal giudice di pace o in tribunale, vuol dire che sono frodi che arrivano tutelate in giudizio. Io sarei un po' più cauto. Raffaele Pellino, grazie per essere stato con noi, grazie a presto. Grazie a voi tutti gli ascoltatori. E grazie a Maurizio Caprino. A voi, arrivederci. Vi ricordo la guida in edicola con Il Sole 24 Ore, ma c'è anche online www.ilsole24ore.com/rcauto. È davvero tutto, Salva Danaio torna domani, adesso il GR. Una buona giornata da Roberta Pellegatta.